Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quinta favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. La signora impose al signor Bernardo Capello che partecipasse con esso noi una delle sue favole, usando però quella brevità che a questa notte si conviene. Il quale, lasciando da canto ogni suo grave pensiero, così a dire incominciò. Favola quinta. Vilio Brigantello ammazza un ladro, il quale era posto nelle insidie per ammazzar lui. Dice il famosissimo poeta che chi prende diletto di far frode non si die lamentar s'altrui l'inganna. Io molte volte e quasi sempre ho veduto quelli che vogliono ingannare rimanere ingannati. Il che avvenne ad un ladro, il quale, volendo uccidere un artigiano, fu ucciso da lui. In Pistoia, città di Toscana, tra Firenze e Lucca, abitava un artigiano molto ricco e pieno di danari, e chiamavasi Vilio Brigantello. Costui, per paura dei ladri, fingeva di essere costituto in gran povertà, e abitava solitario, senza donna e senza servi, in una picciola casetta, ma ben molto piena e fornita di tutte quelle cose che sono alla umana vita necessarie. E per dar fede della scarsa e picciola sua spesa nel vivere, vestiva un abito vile, abbietto e lordo, e faceva la guardia al scrigno dei suoi danari. Era Vilio vigilantissimo e molto sollecito a lavorare, ma misero e avaro nel spendere, e il suo mangiare non era altro che pane e vino, con formaggio e radici d'erbe. Alcuni ladri giotti e astuti, istimando ragionevolmente che Vilio avesse gran quantità di danari, andarono una notte, allora che parve atta al loro proposito, per rubarlo, e non potendo con suoi ferri e altri ordegni aprir la porta né romperla, e dubitando che per lo strepito non concitassero i vicini in sua mala ventura, s'immaginarono d'ingannarlo per un'altra via. Era tra questi ladri uno che era molto familiare e domestico di questo Vilio e dimostrava di esserli suo grande amico, e alle volte l'aveva menato a desinare seco. Posero questi tristi un suo compagno, che era capo e guida loro, in un sacco come morto, e portaronlo a casa di questo Vilio artigiano, pregandolo grandemente, questo simulato amico suo, che lo tenesse in salvo, finché ritornassero a tuorlo, che non molto dimorarebbero. Vilio, non sapendo più oltre, per le preghiere del simulato amico, lasciò porre questo corpo in casa in salvo. Avevano, e ladri, dato ordine tra loro che quando Vilio fusse addormentato, dovesse uscire del sacco e ucciderlo, e tuorli i danari con le altre cose migliori che sa trovasse. Essendo adunque il sacco col corpo posto in casa, ed essendo Vilio appresso il lume attento al lavorare, riguardando per avventura, come costume di quelli che sono timidi e paurosi, il sacco dove nascoso era il ladro, gli parve che quel corpo si muovesse nel sacco. Onde, levatosi da sedere, subito prese un bastone di mirto, pieno di nodi, e lo menò sul capo del ladro, e percosselo di sì fatta maniera che lo ammazzò, e dissimulato e finto il fece un vero morto. I compagni del ladro, avendolo aspettato fin presso il giorno, vedendo che él non veniva, diedero la colpa al sonno, e dubitando, non del compagno, ma del giorno che s'approssimava, ritornarono alla casetta dell'artigiano e gli addimandarono il suo deposito. Il qual dato loro, poiché ebbe molto ben serrato l'uscio e ben puntellato, diss'egli ad alta voce: «Voi mi deste un corpo vivo in luogo d'un corpo morto!» Il che udito, i ladri sbigottiti rimasero, e aperto il sacco, trovarono morto il fedelissimo suo compagno. E per onorare il valor del magnanimo suo capitano, dopo molte lagrime e sospiri, lo diedero al mare che lo nascondesse. E così quello che si aveva immaginato di tradire e ingannare l'artegiano, fu tradito e ingannato da lui. Fine della storia. Il signor Bernardo, con gran soddisfamento di tutti, aveva già messo fine alla sua ingegnosa favola, quando la signora il pregò che con l'enimma l'ordine seguisse. Ed egli così a dire incominciò: «Nacqui di padre sol, né madre alcuna ebbi giamai, e dopo ch'io fui nato, così mi destinò la mia fortuna, che fra tutt'uomo fusse nudrigato. In poco tempo crebbi per ciascuna parte del mondo, e son già sì avvezzato, che, quantunque mi mostri ad alcun rio, a molti aggrada e piace l'esser mio». Molti pensarono d'intendere il vago e dotto enimma, ma il loro pensiero rimase vano, perciò che la loro intelligenza molto deviava dal vero. Onde il capello, vedendo la cosa andare in longo, disse: «Signori, non perdiamo tempo, perciò che l'enimma da me recitato altro non dinota che il giuoco, il quale, nato di solo padre, è da ogni uomo nodrito, e in breve tempo è sparso per tutto il mondo, e di tal maniera è carezzato, che, avenga ch'alcun perda, non però lo discaccia da sé, ma gli piace l'esser suo». Piacque molto a tutti la isposizione del sottile enimma, e massimamente al signor Antonio Bembo, che del gioco assai si dilettava. Fine della quinta favola della tredicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.